collegamento telefonico con noi c'è già la nostra prima intervista. Ve lo presento brevemente, lui è Alex Michelin, è il bassista dei Frammenti. E infatti adesso sulle nostre frequenze intervistiamo la band, e questo è un progetto che nasce in provincia di Treviso nel 2016 da un'idea appunto di quattro amici: Alex, Mauro Serafin, voce percussioni, Francesco Daros, sintetizzatori e sequenze, e Antonio Cettolin, chitarra e voce. Dopo aver pubblicato vari singoli e dopo aver aperto due importanti date nel 2017, una dei nostri amici in realtà è Eugenio in Via di Gioia e un'altra dei management al Festival Rock, tornano l'8 luglio con un brano intitolato Punto di Fuga e successivamente col singolo Rumore, che ci ascolteremo tra pochissimo sulle nostre frequenze. Ma intanto io accendo i microfoni e diamo il benvenuto ad Alex. Ciao Alex. Ciao a tutti, ciao. Come stai? Benissimo, dai, sono reduce da un sushi, quindi pieno e felice. Beh, pieno e felice mi sembra, anzi io adesso voglio sapere cosa hai mangiato, così ci fai venire un po' fame. Di solito cerco di mangiare il più possibile, così l'incentivo a chiudere questo tipo di attività. Beh, mi sembra giusto, quindi ero all you can eat. Esatto. Ovviamente. Allora, come abbiamo detto, voi siete quattro amici che hanno deciso di formare una band. Noi ti chiediamo come è nata l'idea di collaborare insieme, ma soprattutto io sono curiosa di sapere come mai avete scelto il nome Frammenti. Allora, è iniziato tutto molto per caso. Io già da prima suonavo in diverse cover band e poi ho conosciuto Antonio, che è appunto la chitarra e voce, al liceo. E da lì, durante una giornata di autonomia culturale, abbiamo cominciato a suonare a caso assieme, ci siamo trovati anche nel pomeriggio stesso ed è nato prima un'amicizia e poi anche quello che è il progetto. Poi nel tempo abbiamo incontrato Mauro Serafin e alla fine anche Francesco, e appunto siamo diventati prima di tutto migliori amici e poi appunto un progetto, facendo da subito musica nostra, perché quello era un po' quello che mancava a me, mancava anche agli altri componenti, il fatto di sperimentare e finirla insomma con le cover, che è bellissimo, però insomma è tutto un altro mondo insomma fare musica propria. Beh, sicuramente è tutto un altro mondo. Tu hai appena detto che facevate anche cover, e io vi chiedo se ci sono artisti a cui vi ispirate dal punto di vista stilistico, o comunque se c'è un artista o una band in particolare con cui vi piacerebbe collaborare in un futuro. Allora, sicuramente il nostro mito è Cosmo, perché è stato il primo, secondo noi, diciamo almeno nella nuova generazione per così dire, che ha avuto il coraggio di sperimentare molto con sonorità elettroniche, pur calandole all'interno del cantautorato e facendole in una maniera super credibile e proponendo anche temi molto interessanti nei suoi pezzi, nei testi, ma anche le sonorità, cioè c'è una ricerca veramente forte e cioè quasi lo studiamo, diciamo, e quindi sicuramente poterlo conoscere e magari fare qualcosa con lui sarebbe un sogno. Perfetto, quindi Cosmo è stato, diciamo, il tuo artista di riferimento in quest'ultimo, certo, periodo. Sì, sì. Ottimo. Beh, poi ci sono diverse realtà che comunque stanno nascendo, si stanno sviluppando, che ci danno un sacco di fiducia sul fatto che ci sia effettivamente la possibilità di sperimentare in queste direzioni un po' che mescolano cantautorato, elettronica, e come ad esempio mi vengono in mente Simo o gli Iside o anche Vlog, che sono artisti diciamo del milanese, bergamaschi, bresciani, insomma, però comunque tutti questi hanno in comune questa ricerca per un nuovo pop, un nuovo indie che mette insieme le cose, un fusion di generi. Esatto, no? Esatto. Esattamente, fantastico, ottimo. Sarebbe l'ideale per ogni artista, e anche questo nel tuo caso è la ricerca perfetta dei generi. Io ti faccio una domanda. Dicevamo prima che è uscito il vostro nuovo singolo, Rumore, no? Un brano, sì, che vuole insomma ricordare l'estate. Nella canzone viene ripetuto spesso la frase "sogna di fermare il tempo". Che, sì, cosa intende dire? Partendo da questa, allora, frase, ovviamente, ci parlate un po'. Questa frase viene da una confusione che è stata innanzitutto un'impressione avuta proprio in quel momento, anche se sembra strano, in realtà la canzone è nata in maniera super estemporanea sulla spiaggia con un chitarrino che mi porto appresso sempre, e da lì abbiamo cominciato con un giro di accordi semplicissimo e è venuto fuori questo tema, nel senso, in quel momento che era un momento appunto idilliaco, avevamo appena finito un esame io e Mauro, eravamo andati in spiaggia appunto, felicità eccelsa, Esatto, e c'era questo sentimento di fermare il tempo, però poi ci siamo detti, in realtà in questo momento in spiaggia, cioè volendo, ci sono comunque dei fastidi, ad esempio il sole che ti batte in testa, o sì, magari l'ombrellone di fianco in cui c'è la famiglia che fa un casino immane. E quindi cioè, il mio pensiero è stato, in realtà ogni momento, per quanto possa sembrare brutto, vale sempre la pena di essere fermato, cioè di avere il desiderio di vivere solo al massimo. È una sorta di carpe diem, cioè questo è un po' il messaggio che voleva mandare la canzone. E quindi appunto abbiamo pensato di ripetere questo mantra che va avanti tutta la canzone, ed è molto ripetitivo ed è provocatorio in questa sua ripetizione, ma è proprio quello che vuole significare, è il tema profondo che c'è nella canzone. Bellissimo, un bel significato, insomma, si ricerca sempre di scavare nel profondo, come avete fatto voi del resto. Fantastico. E infatti, tra l'altro, il vostro videoclip di Rumore, noi possiamo dire che non si tratta però di un vero e proprio videoclip musicale, ma è di fatto una sequenza di ricordi diversi che sanno, come hai appena raccontato, un po' di mare, un po' di nostalgia. Come è nata l'idea di creare un videoclip che, diciamo, è molto particolare e insolito? Allora, l'idea è di fare un video appunto utilizzando materiali comunque delle persone che ci seguono, viene dalla convinzione che ho io, ma anche che condivido con i ragazzi, che la musica non bastiamo noi, cioè la musica è soprattutto condivisione con le persone e dare qualcosa alle persone da utilizzare per ricordare i propri momenti migliori, e quindi questo sogno, diciamo, di essere il sottofondo musicale dei momenti più belli delle persone che ci stanno attorno. Noi abbiamo chiesto alle persone se volevano partecipare e moltissime persone, anche contro le nostre aspettative, hanno accettato questa iniziativa e infatti poi abbiamo deciso di, diciamo, regalare a queste persone un concerto che si farà domani sera dedicato solo a loro. Cioè, dopo che ci hanno mandato questi materiali, noi abbiamo detto: guarda, c'è questo secret show dedicato a voi. E alla fine una buona maggioranza ha aderito, è stata una cosa molto bella. Credo che ci sia bisogno di questa condivisione, anche perché è lo stesso modo di fruire i contenuti musicali che, diciamo, la quotidianità ci impone, a andare in senso contrario a questo principio, che secondo me invece non va mai perso. E anche perché un artista da solo non è un artista fino in fondo. E come nasce l'idea di fare il Secret Concert, che appunto a questo punto ci ha spoilerato che ci sarà domani sera? Sì. Ma non sappiamo dove. Beh sì, non posso dire dove, sennò poi non è più Secret. Esatto. Quindi nasce appunto da questo. Beh, intanto sono mesi che non suoniamo più comunque dal vivo, ed è una cosa che ci manca tantissimo. Stiamo cercando un'occasione per farlo, e consapevoli comunque che trovare serate, trovare date in questo momento è comunque molto complicato. Abbiamo deciso di organizzare noi un evento, abbiamo affittato questo luogo e ci abbiamo messo tutto noi, chiaramente, però è appunto un regalo, quindi quando c'è un motivo forte per fare una cosa vale la pena farla, e quindi questo è proprio un pensiero, sì. Beh, insomma, la nostalgia del live insieme a altri aspetti ha fatto in modo che anche voi riusciste a donare al pubblico qualcosa. Esatto. Ottimo. Ma a proposito di futuro, cosa ci dobbiamo aspettare dai frammenti? State già lavorando a qualcosa? Avete un piccolo spoiler per Radio Città Fujiko? Sì, allora, abbiamo un sacco di materiale ovviamente in cantiere, come sempre, perché portiamo sempre avanti di pari passo sia, diciamo, la preparazione per i live e anche il lavoro sui pezzi. Noi per adesso, insomma, ci produciamo un po' tutto da soli, quindi siamo facilitati in questo tipo di cosa. E in questo momento abbiamo una decina di pezzi fra i quali appunto scremare potenzialmente un EP o forse anche un album. Stiamo decidendo se uscire con un altro singolo prossimamente, però anche lì c'è questa esigenza, dopo essere usciti appunto 2 anni fa ormai con un album, di far vedere, insomma, la nostra crescita con un altro lavoro del genere, un po' più strutturato, e quindi spero, insomma, che auspicabilmente prima della fine del 2020 o al massimo nei primi mesi del 2021 esca qualcosa. Non so ancora bene cosa, non so neanche un titolo, però qualcosa ci sarà. E allora noi aspettiamo le vostre novità, tornate presto a trovarci a Radio Città Fujiko, in bocca al lupo per il vostro Secret Concert per domani, e ci aggiorniamo sulla vostra musica. Grazie mille e buona continuazione. Ciao, continuate ciao. A fare queste cose. Ciao. Grazie, intanto ci ascoltiamo il rumore dei frammenti. Qualcosa che brucia la mia pelle. È il sole che picchia sulla mia mente. Non mi riesce di capire il mare che mi vuole dire. Con la faccia sulla sabbia mi sembra di impazzire. Se ci penso quante onde devo ancora scavalcare, di quanto fumo ho bisogno per sparire.